Dall'ovile su in montagna è fuggito un agnellino. La mamma poverina teme che il lupo lo voglia mangiare. Fuori è buio, il bosco è nero ed il lupo è già sul sentiero. Ora il povero agnellino di paura ti muore già. Prendi, prendi quell'agnellino, prendilo, prendilo per il codino. Se lo trovi il lupo cattivo in un boccone se lo mangerà. Prendi, prendi quell'agnellino, prendilo, prendilo per il codino. Dalla mamma che tanto l'aspetta, portalo subito, non ti fermar. Se lo mangerà. Prendi, prendi quell'agnellino, prendilo, prendilo per il codino.